La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti in ascolto se adesso accendete, oppure ben rimasti se avete sentito prima Enrico Ruggeri, grazie a chi ci ascolta in diretta in podcast. E vado subito all'argomento del giorno in questo 4 di novembre. Mi non è mai piaciuta molto la retorica della vittoria della prima guerra mondiale, mi limito a dire un pensiero ai due Marò che stanno in India dopo così tanto tempo, che vestono la divisa e l'Italia non riesce in nessun modo a far tornare indietro. Detto tutto questo, l'argomento del giorno è questo: torniamo sull'assenteismo pubblico, perché a distanza di giorni dai fatti di Sanremo, lo ricordo a tutti, nel comune di Sanremo su un totale di 528 dipendenti comunali, a seguito di un'indagine protratta per lungo tempo da parte della Procura di Imperia della Guardia di Finanza su segnalazione dell'ex sindaco e di cui era informato il sindaco attuale, 195 persone su 528 sono sul totale dei dipendenti pubblici del comune, tra arrestati, formalmente già indagati e al vaglio dell'esame della Procura. 195 su 528. Ha riacceso il dibattito su licenziabilità o meno degli assenteisti per gravi mancanze disciplinari. Il ministro Madia è intervenuto dicendo vanno licenziati, e molti hanno scritto che a questo serve la riforma Madia approvata l'anno scorso e di cui siamo in attesa, anzi no, approvata quest'anno, cioè la legge delega 124/2015 di cui siamo in attesa dei decreti attuativi delegati. Altre notizie poi su questa scorta si sono aggiunte, per esempio sulla stampa di oggi c'è la notizia di una vigilessa a Monza assenteista sottoposta a una contestazione disciplinare e che se la cava con sole 500 euro di ammenda. Con le dichiarazioni del sindaco, gli abbiamo chiesto se oggi poteva venire, purtroppo non poteva venire, si chiama Montalbano, il sindaco competente di Monza, che alle domande del collega della stampa dicendo ma com'è che se la cava la vigilessa assenteista con una sanzione così bassa, lui dice ma in realtà noi non potremmo fare di più. Allora, su questo non potremmo fare di più, in realtà bisogna per mestiere, facendo giornalista, dirvi che non è vero, non è vero, e non è vero da anni, non è vero da anni, perché la riforma della contestazione disciplinare, dei procedimenti disciplinari e delle fattispecie e delle sanzioni nella pubblica amministrazione è intervenuta nel 2009, la riforma Brunetta, emendando il precedente testo del 2001, il decreto legislativo 165, all'articolo 55, è chiarissimo nel dire, quindi dal 2009, nel dire che si può procedere a licenziamento anche senza preavviso del dipendente pubblico in tutta una serie di casi, di cui uno è esattamente quello di assenteismo, cioè di manomissione delle procedure per l'attestazione in servizio, è citato esplicitamente anche quello delle false attestazioni di malattia, e poi naturalmente per gravissime mancanze disciplinari. La riforma intervenuta allora dice che la contestazione disciplinare deve arrivare, tra contestazione e naturalmente contraddittorio, a una decisione nel termine perentorio di 120 giorni. Quindi le norme in realtà ci sono, e come, e sono, ripeto, inequivoche, cioè in realtà non c'è mai stato bisogno di alcuna riforma per poter procedere anche nei casi gravi ai licenziamenti nella pubblica amministrazione per assenteismo. Per essere precisi, in quell'articolo che vi ho citato della riforma del 2009 è stabilito il numero di giorni anche di assenza da considerare come gravissima mancanza. Tanto è vero, l'assenza priva di valida giustificazione, leggo il testo, per un numero di giorni anche non continuativi superiori a 3 nell'arco di un biennio o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni, quindi è individuato anche il numero dei giorni precisi. A fronte di questo, le statistiche, vi ricordo che nel 2014, è un dato ancora ufficioso, lo hanno pubblicato i giornali parlando con dirigenti della funzione pubblica, non è ancora pubblicato perché in realtà il dato pubblicato ultimo, almeno che conosciamo noi, era quello relativo al 2013 con 200 licenziati pubblici sul totale dei 3 milioni di dipendenti. Nel 2014 sarebbero stati 220 i licenziamenti per motivi disciplinari nella pubblica amministrazione, di questi 99 per assenze ingiustificate, 78 per reati, 35 per altre gravi mancanze disciplinari, 7 per doppio lavoro non autorizzato. Voi capite che 99 licenziamenti per assenze ingiustificate, solo a Sanremo ci sono 195 persone su 528 indagate, è ovvio che i conti non tornano, però le norme, come vedete, ci sono. La questione è che spetta non al politico, al sindaco, all'assessore eccetera eccetera vigilare sul rispetto del dovere del pubblico dipendente, ma spetta ai dirigenti. Qui si apre un grande problema sui dirigenti che tengono gli occhi chiusi, oppure dicono ai dirigenti: guardate che noi malgrado il testo del 2009 preveda esplicitamente che possiamo procedere disciplinarmente fino alla sanzione grave, la più grave, del licenziamento senza dover attendere il giudizio penale, nella realtà è che se poi becchiamo le impugnative e le impugnative hanno un esito favorevole al pubblico dipendente, come capita innumerevoli volte, è già appena capitato a un dipendente proprio a Sanremo ed era capitato a un altro dipendente pubblico a Sanremo reintegrato dal giudice del lavoro, un croupier che rubava al casinò di Sanremo e per questo era stato licenziato, è stato reintegrato perché il giudice del lavoro spesso dice: siccome manca ancora, non è arrivato ancora in Cassazione il giudizio penale, intanto io ti reintegro. Sono stati reintegrati i dipendenti della SEA all'aeroporto a Malpensa che erano stati licenziati perché rubavano nei bagagli dei viaggiatori. Ecco, allora i dirigenti dicono sì, i politici dicono che noi non facciamo il nostro mestiere di vigilare, però attenti che noi siamo esposti poi al danno erariale in caso di reintegro sul lavoro da parte del magistrato del lavoro mentre è pendente l'eventuale giudizio penale e noi abbiamo invece proposto ed è stato poi assunto il licenziamento. Quindi siamo in queste curve per capire bene cosa succede. È vero che c'era bisogno di un'altra riforma o è vero che vale il testo di legge vigente? A me pare che valga il testo di legge vigente. Hanno ragione o torto i dirigenti pubblici che dicono sì, prendetevela con noi, ma intanto poi noi risultiamo esposti personalmente viste le decisioni frequentissime di reintegro da parte del giudice del lavoro, visti i tempi lunghi poi del giudizio penale. Ecco, cerchiamo di capire tutte queste cose e intanto però ascoltiamo delle voci di pubblici dipendenti che i colleghi del Messaggero hanno raccolto e che trovate sul sito del messaggero.it. Fermo restando il fatto che è difficilissimo arrivare al licenziamento di quelle persone, secondo me è giusto. È difficilissimo perché poi nel momento in cui si avvia il procedimento il licenziamento viene spesso revocato. Ci sono delle persone di grandissima qualità che lavorano molto più di quanto comporterebbe il loro dovere d'ufficio. Ci sono molte persone che vivono alle spalle della pubblica amministrazione. Io sono dell'idea che prima di licenziare le persone si possano esperire altri tentativi, per esempio cercare di convincere le persone a lavorare. Ci sono dei metodi anche molto semplici, per esempio affidare alle persone dei compiti e verificare che queste attività vengano svolte. Che altro quello che ha detto e sottolineerei è che ce ne sono tanti che non sono fannulloni e siamo veramente tanti, mentre invece c'è sempre stata una campagna di stampa allucinante. Non dipende da loro, nella maggior parte dei casi, dipende dai dirigenti o dall'ufficio dove si trovano. Qui dentro si lavora e si sgobba, però non abbiamo nessuna soddisfazione. Gli stipendi sono miseri, che cosa vogliono di più? Cosa pretendono? Noi ci dobbiamo accontentare di un panino a pranzo. Loro dove vanno a mangiare? Allora, ultimo tema toccato, come vedete, da alcune di queste testimonianze di lavoratori pubblici è quello collegato anche al giudizio del merito e del demerito, il salario di merito che mi tocca per obbligo, noi dobbiamo dire la verità sulle condizioni in cui teniamo il pubblico impiego. Naturalmente noi siamo in condizioni di 5 anni di blocco del rinnovo dei contratti e lo abbiamo già spiegato in una trasmissione pochi giorni fa, nella legge di stabilità ci sono solo 300 milioni che è poco più di un'indennità di vacanza contrattuale, lo Stato risponderà solo del rinnovo contrattuale dei suoi dipendenti centrali, chiede alle regioni e ai comuni di tirar fuori delle risorse per il rinnovo dei propri dipendenti, solo dopo l'accorpamento da 12 a 4 aree del totale dei pubblici dipendenti si arriverà a quei 4 contratti di settore, ai successivi contratti di sottosettore in cui si affronta poi la questione anche del salario di merito e del premio. Quindi questa è la condizione in cui stiamo. Gli ospiti, per sentire i diversi punti di vista sui temi che intanto ho toccato nella sintesi, norme vigenti oppure no, ruolo dei dirigenti e ruolo e loro esposizione a rischi personalmente per danno erariale, se poi il giudice del lavoro reintegra prima che il giudizio penale abbia il suo lunghissimo corso. E quindi per parlare di queste cose è il segretario nazionale della funzione pubblica della CISL Giovanni Faverin, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a lei. E Giancarlo Barra, che è segretario generale di Dirpubblica, appunto la federazione di dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione che aderisce a Confedir. Buon pomeriggio Giancarlo Barra. Buon pomeriggio, grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, io a entrambi spero, e chiedo scusa comunque, vi prego altrimenti di correggermi se nella mia sintesi c'è qualcosa che tecnicamente vi sembra improprio o sbagliato. Comincio da Giovanni Faverin e faccio a lui le due domande. Le leggi ci sono già, a me sembra di sì, ma i dirigenti quanto si sono esposti rispetto poi ai politici che fanno scarica a barile sulle loro spalle? Ma le leggi ci sono già, non serve nessun'altra norma, basta farle rispettare. Distinguerei le due questioni. I dirigenti sono tenuti, i più bravi, la maggior parte lo fanno, a un controllo serio sull'assenteismo e anche sulla qualità del lavoro, perché c'è anche un codice di comportamento del lavoro che è approvato dall'aprile 2013 con la legge 62. Quindi ci sono strumenti e questo i dirigenti devono farlo indipendentemente dalla situazione delle responsabilità erariali, mentre hanno ragione che nella differenza tra loro e un dirigente del privato, licenziare una persona che si può e per molti casi, ripeto anche per mancato rispetto ai codici di comportamento, non solo quello disciplinare, sì, certo, lo possono fare e non è giusto che paghino loro. Questo mette nelle condizioni i politici, invece che fare una però, nuova però riforma. Attualmente, lei ci conferma, loro sono esposti al rischio. Certo, poi, ecco. Sono esposti e quindi la prima parte dovrebbero farla, il controllo sull'assenteismo puntuale nel stile quotidiano e la qualità del lavoro. La seconda, licenziare una persona, lo possono fare se ci sono le questioni, ma non rispondere loro, perché nel caso che lei ha citato, se poi il giudice fa tornare indietro la persona e quella persona si avvale e chiede il danno erariale, paga lui. Allora io direi, siccome non è una cosa strana, è una discussione vecchia, è bene che non paghi il dirigente. Se poi invece il dirigente che ha licenziato per ingiustificato motivo, allora sarà l'ente che si rivale sul dirigente, ma bisogna essere onesti, i politici sbagliano quando dicono che è il dirigente che non fa, ma non pagano i politici. Cioè, in teoria, perdoni, per spiegare sempre a chi è in ascolto, in teoria dovrebbe valere per il dirigente pubblico che a quel punto fa il proprio dovere lo stesso criterio che abbiamo adottato per il magistrato. Ricordiamo a tutti che il magistrato non risponde direttamente, la responsabilità civile del magistrato, secondo le leggi vigenti modificate anche da questo governo, non risponde direttamente di tasca propria, risponde lo Stato della responsabilità civile per casi di colpa grave, nell'errore di giudizio da parte del magistrato, e poi eventualmente esiste la facoltà di rivalersi anche sul giudice, ma in proporzione fissa molto bassa del suo stipendio. Non vedo perché non deve valere per i magistrati, ma non anche a quel punto per i dirigenti pubblici. Lei è d'accordo, Faverin? Sono d'accordo, perché questo porta i dirigenti a fare il ruolo loro di datori del lavoro e la politica indirizzo. Allora la Madia e questo nuovo governo da cui ci aspettavamo molto, invece che fare i tre recinti in cloud dei dirigenti da scegliere e da affiliare, deve liberarli e misurare quelli bravi che meritano e pagarli di più, e gli altri sottoporli al fatto che non sono dirigenti dello Stato. Questa è la vera riforma che serve. Allora, fermo lì che intanto facciamo le due stesse domande a Giancarlo Barra. Se conferma che anche a giudizio suo e dei suoi associati la legge era chiara già come era prima, e secondo, su questo punto dell'esposizione personale dei dirigenti che assumono decisioni simili, che forse spiega perché poi sono di numero così ristretto. Sì, dunque guardi, confermo che la legge che ha citato lei del 2009 è chiarissima, no? Chiara, ma anche precedentemente, ma se arriviamo addirittura ma prima della privatizzazione il testo unico del 57 prevedeva per il dipendente pubblico, per il pubblico impiegato, una sanzione ancora peggiore, la destituzione, sì, la destituzione. Che solo il nome era infamante, perché il licenziamento in sé non è una cosa infamante, certo. No? Uno può essere licenziato anche perché la fabbrica chiude. Ecco, allora invece non sono d'accordo sul fatto che i dirigenti pagano le conseguenze di decisioni sbagliate, purtroppo questo non avviene affatto. Guardi quello che è successo nell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, lì sono stati condannati a rotta di collo e non ha pagato proprio nessuno. E quindi non esiste questo. Come è anche vero che nessuno deve essere sottratto dalla responsabilità. Il giudice, noi dobbiamo pensare che il giudice quando giudica, si giudica sulla base delle carte. Molto spesso, come nel processo penale, si arrivano a delle assoluzioni perché l'istruttoria è sbagliata. Sì. Perché viene sbagliata l'istruttoria? Perché ci sono purtroppo degli asili e ci sono anche delle persone che sono in combutta con il politico, soprattutto nel comune. Certo. Perché io non sono neanche d'accordo sul fatto che il sindaco in un comune di quelle dimensioni come Sanremo è una marea di gente che non timbra e il sindaco non ha nessuna conseguenza. È chiaro che il sindaco sta in diretto contatto con il primo anello della scala gerarchica, che sarebbe il dirigente, il manager. Il sindaco ha domanda esplicita, perché noi lo chiamammo il giorno stesso, il sindaco attuale e il predecessore, ha risposto poi alla stampa: io purtroppo avevo, Zoccarato, il sindaco che poi è andato alla procura di Imperia, io avevo ero giunto alla convinzione di non potermi fidare dei dirigenti del comune e quindi sono andato in procura. Ah, benissimo. Ecco, il discorso che comunque c'è, vede, è una conferma che c'è comunque una responsabilità e una capacità d'agire da parte del politico. Io penso invece che il pesce, come si dice, puzza dalla testa. E lì la cosa, guardi, ma visto che si parla di anticorpi, no? Si è sentito parlare di anticorpi, ma l'anticorpo è prima di tutto l'autorità anticorruzione, prima di tutto la funzione pubblica con il suo ispettorato. Ma come mai che questi anticorpi non funzionano? Noi vediamo Cantone e La Madia che sembrano più profeti. Sembrano due profeti. Posso dirla in una maniera che lei non può dire, sono d'accordo con lei, sembra un po' foglie di fico, la politica ha messo queste foglie di fico, mentre invece i poteri ispettivi che ci sono nel nostro ordinamento, come dice lei, perché non vengono esercitati quelli? Bravo. Ma infatti il dirigente deve pagare. Allora, paga. Io apprezzo molto, le citiamo subito, un minuto di informazione stradale e riprendo ridandole la parola per questi dati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.50, sono con noi il segretario nazionale della funzione pubblica CISL Giovanni Faverin e il segretario generale di Dir Pubblica, quindi Federazione Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione di Confeder, Giancarlo Barra, che avevo interrotto per le informazioni stradali, c'era dei dati da citare, prego Barra. Voglio dire che noi sappiamo invece che viene il contrario in certi casi, lo strumento disciplinare viene utilizzato per tormentare persone oneste. Questo, abbiamo decine di casi in cui le amministrazioni nei confronti di gente che ha carattere e spirito di servizio si scaricano contro il procedimento disciplinare, poi perdono, mandano, perché andare davanti a un giudice per un pubblico impiegato non è così facile, soprattutto dal punto di vista economico, perché bisogna pagare un avvocato, ecco, e poi dopo nessuno paga, vengono reintegrati perché magari è giusto che siano reintegrati. Ecco, il discorso è che la radice sta nella politica, sta anche nell'ordinamento del personale, perché come abbiamo sentito quei colleghi che parlavano, non c'è una misura a favore degli onesti, sì. Non c'è una misura a favore dei laboriosi, perché guardi, non esiste peggiore punizione per un fannullone, un disonesto, veder procedere l'onesto. Lei consideri che in tutto il pubblico impiego privatizzato non esiste la carriera, cioè quella legittima aspettativa di progresso che è connaturata nell'uomo. Sì, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. La valutazione di merito, che vedremo che cosa poi avverrà con questi nuovi contratti, dovrebbe essere un potente strumento esattamente per quello che dice Giancarlo Barra, perché altrimenti, come ovvio, non ci sono gli incentivi perché si diffonda un premio alla cultura di chi vuole lavorare. Sono in tanti, di chi fa di più è meglio, però se non c'è il premio, capite bene? Questo spiega poi perché anche tanti stanno zitti di fronte a fenomeni così diffusi come a Sanremo, perché dicono tanto l'andazzo è questo. Io lo dico perché non amo generalizzare, non ce l'ho con tutti i dipendenti pubblici, tutti i dipendenti privati. Bisogna capire la radice di questi fenomeni. Non è una nuova legge, però questo è poco mai sicuro, quello di cui avevamo bisogno. Bisogna cambiare lo spirito organizzativo, esercitare i poteri che oggi sono previsti, mettere in condizione i dirigenti e i dipendenti di dire: io c'ho degli incentivi a far meglio, questi non ci sono. Ecco, questo la politica dovrebbe riflettere molto. Sentiamo rapidamente alcuni ascoltatori. Carlo da Roma. Carlo, prego. Giannino, buonasera. Sì. Allora, io le volevo raccontare quello che è successo a Roma per quanto riguarda il discorso dei famosi biglietti clonati. ATAC. Allora, la storia andava avanti da 13 anni, io ho un familiare che lavora in azienda e a fronte di dirigenti che prendono centinaia di migliaia di euro l'anno, il più stupido prende 240.000 euro l'anno praticamente, mia moglie prende 1.048 euro l'anno più gli 80 euro di rendi, e al mese, scusi, gli 80 euro di rendi e i 100 euro per due figli, quindi immagini. Ed è in causa con l'azienda da 12 anni perché inquadrata in un modo, cioè, è causa vinta, l'azienda che non dà soddisfazione. Beh, solidarietà. Allora qui c'è stato un dirigente che è stato colto in flagranza di reato perché faceva lo pallone per l'organizzazione. È stato sospeso dal servizio, lui ha fatto ricorso all'ispettorato del lavoro, ha vinto il ricorso in quanto il diritto italiano impone i tre gradi di giudizio, quindi lui, nonostante la flagranza del reato... Conosco il caso, esattamente come sta dicendo, forse è il caso di aggiungere ai nostri ascoltatori che non sono tenuti a saperlo, che è una inchiesta andata avanti per anni e per anni anche rimasta ferma sul fatto che all'interno dell'azienda, l'ATAC, la municipalizzata più scassata per bilancio debiti di tutta Italia, c'era un fenomeno di clonazione delle serie dei biglietti, come una specie di creazione monetaria con biglietti falsi, e alcuni dei dirigenti erano implicati esattamente in questa cosa, e uno di questi è esattamente ha avuto il reintegro, come ci dice Carlo da Roma. Questo per riflettere su che cosa succede all'interno del nostro paese. Margherita da Udine, prego Margherita. Buonasera, io lavoro all'università, per di più sono straniera, devo dire che da tanti anni non riesco a capire come un posto di lavoro pubblico che ho può essere così trattato in modo, come dire, nessuno guarda quello che faccio, nessuno fa un controllo di quello che faccio, e se io giro la testa a destra a manca vedo dei colleghi che non fanno proprio niente. Va bene che siamo i dipendenti, dipendiamo dal Ministero dell'Università e Ricerca. Ma sarebbe stato così nel paese da cui proveniva? No, è per quello, cioè ho un qualcosa dentro di me che mi dice: ma non è possibile così, cioè io cerco di fare quello che posso fare nonostante i soldi che guadagno, di meno, di più, così, è un posto di lavoro, mi permette di vivere in modo dignitoso, decente, sì, diciamo, perché nessuno fa caso a quelle persone che non fanno proprio niente, non dipende da soldi che guadagnano. E abbiamo tentato di far riflettere con le testimonianze di Giovanni Faverin della funzione pubblica CISL e di Giancarlo Barra, il segretario generale di Dir Pubblica, che all'interno del pubblico impiego i sindacati per primi vorrebbero cambiare questi i controlli, i premi organizzativi, gli incentivi a far meglio. Vedremo però, perché la politica su questo promette sempre nuove leggi, ma queste cose qua in concreto è un po' renitente a farle. Grazie a Giovanni Faverini e Giancarlo Barra, continuate con la D24, appuntamento all'8:15 domani mattina con Attenti a noi due insieme ad Alessandro Milan.